La rosa purpurea di Franco D'Assisi. Eccoci qua, la rosa purpurea, prima puntata di settembre, un saluto da Franco D'Assisi. È tornato il cinema, potremmo dire, è tornato dopo un'estate difficile per prodotto, frequenza nelle sale, ci sono tante lamentele, tanti peana, tanti cahiers de doléances, ma insomma la cosa che bisogna fare si continua a non farla, mandare prodotto di grande qualità, e chi l'ha fatto, cattivissimo è, per esempio, guadagna 1 milione al giorno, tanto per dirne una. Ma è arrivato settembre, sono arrivati i primi film di quelli che attendevamo, parleremo diffusamente di Dunkirk, ve lo dico subito, perché questa è una puntata di grande cinema, anche perché si è aperto la mostra del cinema di Venezia e anche lì abbiamo già visto cose molto interessanti. E allora procediamo con ordine, non mancheremo di giocare insieme, di avere tutti i nostri spazi per condividere con noi la gioia del cinema, ma colleghiamoci subito con Venezia. C'è Boris Sollazzo, ciao Boris. Ciao Franco, buongiorno a tutti gli ascoltatori. Stavolta la trasmissione la facciamo dal Naviglio alla Laguna, siamo su due specchi d'acqua differenti, però Boris, so che le cose lì a Venezia sono cominciate abbastanza bene per quanto riguarda la qualità. Noi catapultiamoci subito nel clima del film che ha aperto la mostra del cinema e si intitola Downsizing. Get up and open your eyes. The world is filled with things to see. You may find yourself in another part of the world, and you may say to yourself, all clear. My God, what have I done? Le atmosfere originali di Downsizing, perché come sapete tutti i film a Venezia sono prime mondiali, quindi sono molto spesso con trailer e clip in lingua originale. Un film di cui avevamo accennato la settimana scorsa, Boris, una società che si fa rimpicciolire per essere molto molto più ricca. C'è una metafora piuttosto pungente, no? Anche la nostra società, con un Matt Damon protagonista. Alla visione, che tipo di risultato ha dato questo Downsizing? Allora, direi che con ogni certezza non avremo un nuovo esordio a Venezia che va agli Oscar. Questo sì, che va insomma a stravincere agli Oscar, perché non sembra quel tipo di film, non sembra quel tipo di cult che, come La La Land, Gravity, Birdman, poi a febbraio realizza un pleno qua, o quasi. Non è neanche un brutto film, anche se capisco la delusione di molto della platea veneziana, di molti dei critici, perché Payne secondo me si inventa un soggetto molto divertente, molto intelligente, che è questa diminuzione da 2744 a 1 degli uomini, che da 1,80 m diventano massimo 13 cm, per salvare il mondo sostanzialmente, perché chiaramente con 13 centimetri consumi di meno, spendi di meno, produci meno rifiuti. Un'utopia che rischia di diventare distopia, perché poi il mondo è a grandezza naturale e il mondo ha ambizioni a grandezza naturali, e quindi se qualcuno non ti segue in quel sogno può diventare un incubo. La cosa strana di Downsizing è che fino a 3/4 del film, fino a che non arriva un Christoph Waltz, che è sempre bravissimo ma rischia sempre di più di diventare una parodia di se stesso, qui fa un serbo molto divertente, molto ben fatto, però fin troppo caratterizzato, fino a quel momento riesce a fare tutte le cose più difficili, riesce a mantenere un equilibrio tra una ironia feroce verso il politicamente corretto, verso la New Age, e allo stesso tempo anche però un impegno civile, per poi curvare verso un finale catastrofista, diciamo, almeno nelle intenzioni, e piuttosto insensato anche nella sua conseguenzialità, e lì il film crolla, ed è un peccato, perché un film che era sicuramente stato da 7,5 fino a quel momento invece va sotto la sufficienza per un finale che sembra davvero appiccicato e che non capisce. Certo, non convince fino in pieno. Boris, due nomi velocemente di questa primissima parte del festival: Paul Schrader e Guillermo del Toro. Due film, The Shape of Water e First Reformed. Quale ti ha convinto di più? So che hanno avuto grandissimo consenso da parte della critica. Sì, Shape of Water sicuramente, credo che valga anche per molti altri. Qua c'è stata un'ovazione addirittura durante la conferenza stampa, è il miglior Guillermo del Toro per quanto riguarda l'apparato visivo, per quanto riguarda le idee, anche per quanto riguarda un modo di fare politica, perché qui ci sono i più classici degli americani contro i russi, c'è un sapore anni 50, c'è un gusto del cinema antico e dell'estetica, e allo stesso tempo anche è probabilmente il film più romantico che ha fatto Guillermo del Toro, veramente molto riuscito dopo anni che insomma era passato da eccessi e fallimenti. Fa piacere aver ritrovato un maestro del genere. Schrader è pur sempre Schrader, lo sceneggiatore e regista che conosciamo, con Amanda Seyfried e Ethan Hawke molto in palla, che racconta una storia molto complessa su temi estremamente sensibili per noi in questo momento, come la religione, come appunto ciò che siamo diventati anche come società e i principi cardine di questa società. Lo affronta in maniera piuttosto originale, forse un po' tagliata con l'accetta per come siamo abituati in un cinema più attento alle sfumature. Ecco, Schrader in quello non è proprio uno che riesce ad andare di cesello. Per quanto tempo resterà con noi, signor Bratter? 6 giorni. E 6 notti. È un piacere avervi qui al palazzo. Io pensavo di mettere un disco e di farti una danza cambogiana della fertilità, così, guarda. Ma che ti prende? Che cos'è? Che stai facendo? Io sto cercando di farti ribollire il sangue e tu stai facendo una ringa. Il nostro matrimonio è fallito. Indovina cosa sono. Sei ubriaco. Finalmente te ne sei accorta. Sei proprio ubriaco fradicio, Paul. Perché vi abbiamo fatto sentire questa clip di A piedi nudi nel parco, film che io adoro veramente alla follia? Perché Jane Fonda e Robert Redford sono stati premiati con il Leone d'Oro alla carriera ed è stato Boris spesso un tappeto rosso veramente da piangere, di commozione. Beh, sì, senza alcun dubbio ha un impatto anche scenico e iconico molto molto molto forte. In questo caso Robert Redford e Jane Fonda hanno la fortuna di essere sì due che hanno fatto la storia del cinema, ma anche due che continuano a farla, che continuano a cercare di portare avanti il racconto cinematografico, tra l'altro non solo in sala, si pensi solo al ruolo di stesso direttore di festival di Robert Redford. È ovvio che il tempo è stato inclemente nei loro confronti esteticamente, ma le loro parole, le loro immagini, anche il modo in cui comunque percorrono questo festival non li fa sembrare come altri leoni alla carriera, che insomma forse davano una sensazione più di passato, di sguardo nostalgico. Cioè sono due che continuano anche nelle dichiarazioni fuori dal cinema ad essere estremamente vitali, quindi possiamo dire che forse negli ultimi anni sono stati tra i due leoni della carriera più giovani che abbiamo avuto in questo senso. Boris, rimani con noi, fra poco parliamo ancora di film di Venezia, parliamo di Nico di Susanna Nicchiarelli, che ha avuto grandissima eco, e poi del primo film che da Venezia arriva nelle sale italiane, che si intitola La vita in comune di Edoardo Winsper, che sarà al telefono con noi. La rosa purpurea. Prosegue la rosa purpurea in questa puntata, prima puntata settembrina. Stiamo parlando della mostra del cinema di Venezia. Fra poco i film che arriveranno in sala da Venezia e non, come Dunkirk, per esempio, il film più atteso della settimana. Prima però fermiamoci ancora un attimo a questi primi giorni di mostra del cinema, perché ha fatto molto clamore un film italiano di Susanna Nicchiarelli, che fra poco sentiremo, che si intitola Nico 1988. Boris Sollazzo da Venezia, raccontaci in un minuto di cosa si tratta. Allora, la storia di Nico 1988 è la storia di una delle più grandi icone del rock, la famosa appunto Nico, che con i Velvet Underground cambiò la storia attraverso un rapporto molto proficuo, anche se forse vampiresco, con quel mondo, quello che appunto era quello di Lou Reed, ma anche quello di Andy Warhol, e che ne fu di fatto fagocitata. La cosa interessante che ha fatto Susanna Nicchiarelli è non andare a raccontare ciò che era stato sui riflettori, ma i mesi precedenti alla morte di Nico, la morte di Crista, perché così si chiamava, in cui lei era diventata una sorta di sacerdotessa nera che ha ispirato il New Wave, il Gothic, Nick Cave, in cui aveva negato la splendida bellezza che aveva, si era tinta i capelli di nero, era ingrassata, viveva una maternità molto difficile con il figlio avuto ma non riconosciuto da Alain Delon, continuava a lottare contro se stessa, contro i suoi demoni, contro l'eroina. Questo racconto di una donna che comunque è più felice di quando aveva tutto è secondo me una delle cose più interessanti che abbiamo visto a Venezia, perché c'è una profondità di visione, anche grazie al bellissimo, alla bellissima interpretazione di Trine Dirholm, musa di Winterberg in Festen, nella Comune. C'è la capacità di scendere a fondo del talento, dell'umanità, del disastro che può portare un'eccessiva esposizione di se stessi al mondo. È un film che anche musicalmente, proprio attraverso le disarmonie, le stonature, la difficoltà di vivere all'interno di un contesto del genere, forse dà il meglio. E questo anche grazie, a mio parere, a un cast fatto molto bene da Thomas Trabacchia, da Anna Maria Marinka, che diventano dei satelliti attorno a questo pianeta straordinario ma anche ferito che è appunto Nico. È anche un'occasione meravigliosa, secondo me, per recuperare una delle più grandi artiste probabilmente sottovalutate della nostra storia. E allora, questo era Nico 1988, ma come dicevamo, Boris Sollazzo ha chiacchierato un po' del film con Susanna Nicchiarelli, la regista. Sentiamo. Susanna Nicchiarelli, siamo al Lido per Nico 1988. La prima domanda, forse la più banale: non era più semplice raccontare la Nico dei tempi migliori? Ho voluto raccontare questa Nico proprio perché era molto meno sofferente di quella dei tempi migliori. Quello che dice lei è: io non ero felice quando ero bella, insomma, e tutte le volte che qualcuno le fa domande sugli anni 60 e sull'epoca di Andy Warhol, della Factory, eccetera, lei dice: io ero lì per la mia immagine, non facevo la mia musica, non ero io. Come nasce la fascinazione per il personaggio? La fascinazione nasce, come per tutti, attraverso il disco con la banana dei Velvet Underground. A me mi ha colpito fin da subito quando ho saputo appunto che il disco si chiamava Velvet Underground and Nico, perché Lou Reed non l'aveva voluta nel gruppo, e che poi i Velvet Underground avevano cominciato un loro tragitto mollandola per strada, e ho trovato una donna che ha preso in mano la propria vita e la propria arte. Si portava anche una specie di rifiuto proprio di quell'immagine di bellezza della sua gioventù, è diventata la sacerdotessa delle tenebre e ha inventato uno stile musicale che ha influenzato tutto quello che è venuto dopo. Ecco, questa cosa qua secondo me era la cosa interessante da raccontare del personaggio. Questo forse è il film più bello che hai fatto. Nasce anche da un rapporto straordinario con una bravissima attrice. Sì, i film nascono da un'alchimia. Io, uno dei motivi per cui ho scelto Trine ed è stata la mia prima scelta, è perché mi piace moltissimo come donna Trine, oltre che la trovo un'attrice straordinaria, però è una persona molto positiva, molto energica, e io sapevo di aver bisogno di aiuto, di intelligenza, di lucidità, e sapevo che con lei avrei trovato la strada per raccontare Nico. Volevo fare una cosa particolare, volevo raccontarla con distanza, e solo con una grande attrice riesce a fare una cosa così, così difficile. Senti, mi affascina molto di questo film anche la scelta dei luoghi, cioè, mi sembra che ci sia una ricerca non solo filologica ma molto forte a livello, penso appunto al concerto cecoslovacco, ma penso, sì, anche ad Anzio. Il motivo per cui mi interessava questa parte della storia di Nico è perché è un film sull'Europa degli anni Ottanta. Nico è cresciuta nella Berlino Ovest del dopoguerra, si parla degli americani e della presenza costante degli americani anche in Italia negli anni Ottanta, questa cosa si sentiva molto. E Nico muore nell'88, ossia alla vigilia della caduta del muro, non fa in tempo a vedere la fine di quell'Europa lì. E per questo ho trovato proprio interessante quel pezzo lì della sua storia, questa Europa degli anni Ottanta, che è strano perché è vicina, perché non è tanti anni fa, eppure è lontanissima. Negli ultimi 25 anni l'Europa è cambiata tantissimo e quindi era affascinante questa distanza e vicinanza al tempo stesso degli anni Ottanta. Susanna Nicchiarelli da Venezia, Nico 1988, fra poco Boris Sollazzo sarà ancora con noi per parlare di Dunkerque, però noi continuiamo con la proposta veneziana, come vi avevo detto, con un film, il primo, che dalla mostra, dalla Laguna, dal Lido, rimbalza direttamente nelle sale cinematografiche italiane. Si intitola La vita in comune, lo ha diretto Edoardo Winsper, che fra poco sentiremo. Prima entriamo nel clima del film con questa clip. Hai mai ucciso qualcuno? Un cane. Oh, guarda, ci segui. Resiste la pazienza, come un orizzonte inconsumabile, è la mia anima. Cioè, io non ho capito niente, però mi ha preso. Ti ha già scritto una bella poesia. Ma vaffanculo, anche le poesie, bravi, porca la puttana! Siamo a Disperata, un nome, un programma potremmo dire, di questo paese, un piccolo paesino del sud Italia, dimenticato da tutti, dove un sindaco, onesto ma piuttosto depresso, intreccia una relazione amichevole, o una bozza di amicizia potremmo dire, con due balordi locali che avrebbero qualche ambizione criminale. Un consorzio umano piuttosto variegato, quello che mette in scena Edoardo Winsper in questo La vita in comune, che ha come sfondo, come è accaduto molto spesso nel suo cinema, lo straordinario tacco d'Italia, il sud della Puglia, il Salento, per raccontare però questa volta una storia che poteva essere ambientata chissà in qualsiasi altro sud d'Italia e forse non solo. Edoardo Winsper è in collegamento con noi. Ciao Edoardo, grazie per essere Ciao, qui alla Rosa. Ciao a tutti, buongiorno. Allora, storia universale mi sembra, cioè ambientata stavolta nel tuo territorio di estrazione, anche come dire di passione, ma forse stavolta più universale, cioè meno dipendente da quel territorio a livello narrativo. Beh, le intenzioni sono sempre di raccontare delle storie universali con la forma locale, perché è quella che conosco meglio, che posseggo, che mi è più vicina, che è anche più facile per me. Però i temi sono universali. Qui si racconta la vita in comune, che è la vita di persone le più disparate, a tutti i livelli, sociali, economici, culturali, come anche la vita in comune, la vita politica di un piccolo paese che si svolge appunto nella sala consigliare. E il film racconta appunto, come hai detto tu, questa amicizia inconsueta fra un uomo, un politico di buona famiglia, colto, erudito, però incapace un po' a mantenere la maggioranza, affrontare l'opposizione, e due banditi da strapasso, e come questa amicizia diventerà foriera di rinascita sociale e culturale del paese. Senti Edoardo, mi veniva in mente che con chiaramente ambizioni di mercato molto molto diverse, anche risultati, però il tema della legalità e del rapporto con la legalità del nostro sud sta un po' riemergendo, e mi viene in mente il film di Ficarra e Picone, L'ora legale, no? Poi solo apparentemente una commedia fatta per ridere, ma insomma è un film che ci ha raccontato anche molte cose che vanno un po' oltre. Qui ancora una volta nel tuo film il tema della legalità e di come questa legalità venga difesa da una parte da questo sindaco, ma come possa anche pervadere la cittadinanza, è un tema, come dire, che forse stiamo un po' imparando a riaffrontare con diverse tonalità nel nostro cinema. Beh sì, è un tema importante per l'Italia, dove non è scontata la legalità, c'è molto malaffare, e poi c'è la figura del sindaco che è la più vicina a noi italiani, perché noi siamo il paese dei 100 campanili, e poi i poveri sindaci sono i politici più bistrattati, tra l'altro anche a livello economico, perché guadagnano poco rispetto alle responsabilità che hanno. Pensiamo a un consigliere regionale pugliese, siciliano, guadagna di più del sindaco di Roma, forse ho detto una stupidaggine, però penso di sì. No, quindi questo tema è importante. Per me però non è solo il tema della legalità, è proprio il tema della convivenza, che fra persone diverse, fra persone che hanno un background sociale, culturale totalmente diverso, e come nella storia si possono incontrare e capire anche. E allora, La vita in comune di Edoardo Winsper è il primo film della Mostra del Cinema di Venezia 2017 che arriva nelle sale cinematografiche. Cercatelo, trovatelo, ne vale davvero la pena. Grazie Edoardo per essere stato con noi. Grazie a voi. E allora, non ci dimentichiamo di giocare con voi, come sempre, con il nostro film misterioso del quale seminiamo petali come pollicino. Questa è la prima traccia. Di baciami. Lo sai, non posso. Dillo, baciami, ti voglio. Stringimi. Potrebbe sembrare un qualsiasi film d'amore, ma le note di quel sassofono lì sotto, come dire, sono lì a raccontarci tutta un'altra storia. La Rosa Purpurea, chiocciola, radio24.it, con il titolo del film e il vostro indirizzo per provare a vincere uno dei due Blu-ray in 4K, quindi in altissima definizione, Ultra HD, di cui vi faremo ascoltare un'altra traccia fra poco. Adesso lì nella regia, torniamo fra poco con un altro film, è stato un vero e proprio caso dell'estate, si intitola Easy, ne abbiamo parlato con Nicola Nocella, il protagonista, durante il Festival di Locarno. Adesso ospiteremo Andrea Magnani, il regista, perché arriva finalmente nelle sale italiane. Oh, ma lo sai che alla fine Alessandro Milan ha ceduto? Non ha più voglia di alzarsi la mattina presto. Perché Alessandro Milan è diventato presbite e non riesce più a leggere i giornali per la rassegna stampa. E quindi Alessandro Milan abbandona Radio 24! Ma no, ci sono sempre. Comincio solo un po' più tardi, alle 9, con un programma fatto con voi. Cosa? Si intitola I Funamboli. E con me ci saranno Veronica Gentili e Leonardo Manera. Oh, questo non molla. È attaccato alla poltrona. Cos'è il certificato di vaccinazione? Entro quando portarlo a scuola? Cosa succede se mio figlio non è vaccinato? Domande e polemiche per il decreto della discordia alla prova d'autunno. Conto alla rovescia per l'inizio delle scuole, Radio 24 vi spiega tutto quel che c'è da sapere sui vaccini in classe. Da lunedì 4 settembre per tutta la settimana, in viaggio in GR24 delle 7. La Rosa Purpurea. La Rosa Purpurea dentro e fuori dal grande schermo cinematografico. Continuiamo con le uscite in sala. Ci siamo collegati a Venezia, facciamo un passo indietro e ci colleghiamo anche a Locarno. Ne avevamo parlato durante il festival, meno di un mese fa, di questo film italiano che aveva stregato un po' tutti per la sua capacità di essere da una parte genuino e dall'altra anche con quel velo di malinconia che di solito ti fa appiccicare allo schermo. Grazie a un ottimo protagonista come Nicola Nocella, stiamo parlando di Easy, al secolo Isidoro, l'uomo che si portava in giro una bara per l'Europa da ovest a est a scoprire un mondo nuovo e forse a scoprire un mondo nuovo dentro se stesso. Ascoltiamo la clip. Ho trovato un lavoretto. È una cosa facilissima, sono un paio di giorni. Devi solo guidare. Non posso lavorare, sono diagnosticamente depresso. Tu non sei depresso, tu sei tossico, che è diverso. Sei sicuro che è l'uomo giusto per questa cosa? A 14 anni è diventato campione italiano di go-kart. A 17 anni si parlava di lui in ambiente di Formula 1. Perché non parte? E allora, è certo che pensare al go-kart per Nicola Nocella fa abbastanza impressione. Con noi il regista del film, Andrea Magnani. Hai provato, Andrea, a metterlo in un go-kart, Nicola? Buongiorno a tutti, innanzitutto. No, io non ho provato a mettere Nicola in un go-kart, ma me lo sono immaginato. E proprio da questa immagine poi, che insomma, che non era Nicola all'epoca quando ho scritto il film, ma c'era comunque sempre un omaccione un po' corpulento nei miei pensieri e me lo sono immaginato proprio ad uscire da un go-kart, cosa poteva essere. Allora, Andrea Magnani è ovviamente il regista di Easy, il film di cui stiamo parlando, nelle sale italiane, è partito tra l'altro piuttosto bene al botteghino, ma ha avuto, come dicevo, grande riconoscimento da parte della critica da Locarno in poi. Te l'aspettavi, Andrea, tutta questa passione, questa simpatia per il tuo film? Ma guarda, io devo dire la verità, sono rimasto un po' sorpreso, perché non me l'aspettavo così, non me l'aspettavo così bene, ecco, e ovviamente sono molto contento di questo. Noi poi siamo partiti da molto lontano, e il progetto insomma ha un po' di anni perché con difficoltà abbiamo trovato finanziamenti, abbiamo cercato di fare il film, poi c'è stata la guerra in Ucraina che ci ha un po' fermato, e quindi siamo, come dire, molto contenti, anche perché siamo arrivati come dei maratoneti al traguardo, insomma, quindi no, super felici. Ecco Andrea, come ti è venuta questa idea di road movie con feretro, insomma, come l'hai ideata e qual era il fil rouge che ti portava, io ho parlato appunto di scoperta di un mondo che sta fuori di noi, ma forse anche di un mondo che sta dentro, e per scoprire questo spesso bisogna isolarsi dal proprio mondo, dal proprio acquario, no? E bisogna entrare in un altro. Ma guarda, sì, c'è questo alla base, e c'è soprattutto la voglia di poter raccontare un personaggio solo, non appesantito magari da sottotrame, no? Da trame secondarie, da personaggi secondari, quindi concentrarsi proprio nella sulla psicologia e sul personaggio e sul suo carattere, in modo tale da poter in qualche modo essere con lui nel viaggio il più possibile. A quel punto mi è venuto quasi naturale accompagnarlo a qualcuno che non potesse rispondergli, quindi ho pensato che una bara fosse la cosa migliore. E per me questo è un viaggio, non so, io... E ho voluto fare una sorta di moderno western dove il cavaliere solitario che è Nicola Nocella attraversa queste lande sterminate che sono quelle ucraine appunto per poter andare incontro al suo destino. Andrea, secondo me Nicola Nocella ha due aspetti, quello guascone, anche un po' trucido se vuoi alla John Belushi, perché è simbanale, no, fare questo paragone, basta guardarlo in un certo senso, ma anche quello invece di un'ingenuità, di una purezza che io ricordo dal primo film con Pupi Avati, che ne fa una sorta di novello Candide. Quale di questi due aspetti ti ha colpito e ti ha convinto a prendere Nicola per il tuo film? Assolutamente, nonostante io apprezzi la sua somiglianza, ma anche la verve che ha Nicola simile a quella di Belushi, no, io devo dire che sono rimasto molto colpito dal suo candore, dallo stupore in quegli occhi, tra l'altro che aveva anche nel film di Pupi Avati, il figlio più piccolo, quindi io cercavo poi nel personaggio quindi un attore capace di poter donare quel tipo di stupore, anche per il viaggio che fa. Tu hai detto prima, in qualche modo bisogna, come dire, uscire da un acquario e entrare in un altro per poter ritrovare se stessi. Io credo che questo sia un film dove hai bisogno, visto che si parla di un viaggio con bara, hai bisogno di seppellire forse il tuo passato e tutto quello che c'è dietro per poter ripartire, per poter rinascere. E allora, Easy è nelle sale cinematografiche italiane, non resta che andarlo a vedere perché lo merita davvero. Grazie Andrea Magnani. Grazie a tutti voi. E noi proseguiamo con la nostra trasmissione. È arrivato il momento di regalarvi il secondo petalo, la seconda traccia del film misterioso di oggi. Siete stati fatti al meglio delle nostre possibilità. Guardati, sei motivo d'orgoglio per me. Godi più che puoi. Anche qui, insomma, siete stati fatti, eccetera, eccetera, e quindi, come dire, si potrebbe arrivarci abbastanza facilmente al film misterioso, del cui titolo dovete scriverci su una mail, alla rosapurpurea@radio24.it, con il vostro indirizzo. Noi, prima della fine della trasmissione, vi sveliamo di che film si tratta. È arrivato il momento di concentrarci, di entrare in questo film di cui si parla da molto, che è arrivato finalmente nelle sale, che è partito con grande efficacia nei cinema italiani e che forse riscrive in un certo senso la storia del genere bellico. Stiamo parlando di Dunkirk. Siamo di fronte a un gigantesco disastro militare. È arrivata la chiamata, dobbiamo andare a Dunkirk. Lo sai dove andiamo? In guerra, George. La nave sta per salpare! State giù! Sinura! Mobilitano le imbarcazioni civili. Civili? Servono i cacciatorpediniere. Io non ci torno. Moriremo là. Combatteremo sulle spiagge. Sulle piste d'atterraggio. Non ci arrenderemo mai. E allora, una delle storie più incredibili, sono tante le storie incredibili della Seconda Guerra Mondiale, e devo dire... spesso ci stupiamo, no? È vero che la questione della spiaggia di Dunkirk è stata già trattata dal cinema direttamente o indirettamente. Pensate a quella grande carrellata, ne parlavamo la settimana scorsa in termini di un video di Atonement, di espiazione di Joe Wright, però insomma è incredibile come a tanti anni di distanza, ormai quasi 80 dagli eventi, 75-80 anni, si continui a fare cinema su una guerra che ha messo l'uomo di fronte al massimo della sua capacità di resistenza, della resistenza umana, spesso anche oltre quel limite. È quello che è accaduto nel maggio del 1940 sulla spiaggia di Dunkerque, con 400.000 soldati inglesi accerchiati alle spalle dall'esercito tedesco, di fatto spinti verso il mare, ma incapaci di tornare in Gran Bretagna, perché le navi che arrivavano per salvare erano sostanzialmente facilissimo obiettivo degli aerei tedeschi, dei bombardamenti. E questi uomini che vagavano su questa spiaggia, bombe dal cielo, fucili ed esercito alle spalle e acqua, il mare invalicabile di fronte, fino a quando l'Inghilterra non si è mossa con piccoli vascelli, piccole imbarcazioni per andare a ritirare, recuperare questi ragazzi, riportarli in Inghilterra e far partire una seconda fase della guerra. Un episodio incredibile che il regista, che è un signore che si chiama Christopher Nolan, e quindi, come dire, da Memento a Inception, ci ha raccontato la sua capacità di trattare il tema del tempo, il tema dell'umano e dei piani narrativi sfalsati. Ebbene, Christopher Nolan ci racconta con una capacità incredibile in tre fasi: una settimana, un giorno, un'ora. Una settimana nella vita di questi soldati sulla spiaggia, un giorno nella vita di un piccolo vascello che si stacca, un vascello civile, per andare a salvarli, un'ora nella vita di piloti di cacciabombardieri alleati che devono cercare di fare il loro per portare a casa la loro pelle e quella dei loro compatrioti. Boris, ritroviamo Boris Sollazzo. Io sono rimasto veramente stregato da questo film. So che alcuni siti molto importanti gli hanno dato il massimo dei voti, 5 stelle, quindi si parla di capolavoro. Io non lo so se è così. Ho qualche piccolissima perplessità su un finale forse un po' troppo altisonante, forse un po' troppo concessivo, ma che non rovina assolutamente un film straordinario. L'ho detto, sono rimasto stregato, lo confermo, soprattutto dalla capacità di Nolan di farci stare sempre a fianco di queste persone in guerra, schiacciate dalla guerra, di farci sentire l'odore della guerra in ogni singolo momento. E devo dire che sicuramente, secondo me, Dunkerque è un film che riscrive un po' la storia del cinema bellico, come fece Salvate il soldato Ryan qualche decina d'anni fa. Io confesso che sono tra i non entusiasti, tra quelli che non darebbero 5 stelle, però per far capire immediatamente che non è una stroncatura, credo che tra i più bei film di guerra e Dunkirk passi la differenza che c'è nel calcio tra Maradona e Messi, perché Dunkirk è un film abbagliante, accecante sotto il profilo tecnico, sotto il profilo del gioco tra spazi e tempi che Nolan fa fin dall'inizio della sua cinematografia, sovrapponendo appunto piani narrativi, piani visivi, piani temporali e piani spaziali, in questo caso addirittura dividendo in tre atti paralleli, aria, acqua e terra, questa che è una fuga o la copertura della stessa, insomma, epica quanto lo poteva essere l'Apollo 11, il racconto, no, di un fallimento di successo. E di sicuro Nolan in questo momento è Kubrick, probabilmente con la stessa proporzione per cui Messi e il Maradona di adesso. Quindi anche con lo stesso tentativo da parte forse di Nolan di voler dimostrare quello che già è, e volendolo dimostrare di togliere forse calore al suo film. Quello che più colpisce, devo dire, è il ritorno a un cinema di guerra del passato, come se il Vietnam non fosse esistito, come se Malik e Coppola non avessero fatto film di guerra, come se non avessimo visto sangue, arti spezzate in passato, e fossimo tornati a quella guerra che era più un teatro quasi shakespeariano. Non è un caso che, insomma, almeno iconicamente, una delle poche facce riconosciute e riconoscibili del film è quella di Kenneth Branagh. Non è un caso che ci sia lui come punto di riferimento. È un film che anche a livello di contenuti, tra virgolette, politicamente prende una posizione molto precisa. In Inghilterra molti hanno polemizzato sul fatto che fosse il primo film veramente pro-Brexit. In effetti, a livello storico, ci si scorda quasi completamente dei francesi, si crea un'epica anglosassone che spesso eravamo abituati a vedere nei film americani. Ciò non toglie che Dunkirk sia un film eccezionale, e tra l'altro è anche un evento cinematografico eccezionale, come spesso capita a Nolan, dei film di Nolan si parla, dei film di Nolan ci si scontra, ma soprattutto i film di Nolan sono film d'autore che vanno a vedere tutti. Nel primo giorno di programmazione in Italia, e ricordiamolo, insomma, in un contesto in cui il film arriva più tardi che rispetto a tutto il resto del mondo, ha fatto 630.000 euro, che per un film come Dunkirk è qualcosa di enorme, e nessuno si sognerebbe appunto di dire che Lionel Messi non è il giocatore più forte del mondo attualmente, e Nolan è sicuramente il regista più talentuoso del mondo in questo momento. Forse però per diventare Scorsese, per diventare Coppola, per diventare un grande maestro, a mio parere deve fare ancora un salto in più. C'è qualcosa in Dunkirk che non riesce, secondo me, a sfondare il muro dell'emotività, il muro della forza. Hai ragionissimo tu quando dici che tu ti senti lì accanto, però forse non senti addosso la polvere della guerra, non senti addosso le ferite della guerra, come per esempio le si poteva sentire con Malik, ma per esempio, persino con Orizzonte di Gloria, che forse gli può somigliare. È un film chiaramente ben oltre la sufficienza, da voti alti, ecco, io non gli darei il massimo, semplicemente questo, con la considerazione. Bene, Boris, allora questo è Dunkirk, che farà il dominatore probabilmente il weekend. Ha già battuto, come dicevi tu, subito Cattivissimo me nel primo giorno di programmazione. Vedremo se questa cosa durerà per il resto del weekend, e sicuramente però con tutte le sfaccettature di cui anche parlava giustamente Boris, è comunque un film che rappresenta una nuova pietra angolare, a mio modo di vedere, in un certo modo di fare il cinema bellico. Lo chiamerei il cinema dei singoli, il cinema bellico dell'intimità, piuttosto che quello della, nonostante le scene di massa e di luoghi enormi siano davvero tante, però è un cinema dell'anima bellica, ecco, più che della situazione bellica. Ne parleremo, se ne parlerà. Grazie Boris, ci sentiamo la prossima settimana. Alla prossima settimana e buon cinema. E allora adesso linea alla viabilità, fra poco torniamo, un altro film da vedere in sala a Ciambra, ce lo racconta Chiara Pizzimenti, e poi tutti i film da vedere in casa. Restate con noi. Breda, i portoni più belli d'Italia, sicuri e installati in un giorno. Bredaportoni.com vi presenta La Rosa Purpurea. Eccoci qua, la quarta parte della Rosa Purpurea. Non abbiamo esaurito i film da vedere in sala, come vedete, proposte ce ne sono tante, altisonanti, di grande respiro come Dunkirk, oppure di proposte di grande qualità come Easy, e anche come questo A Ciambra, che è passato dal Festival di Cannes, dalla Kenzen, proprio nello scorso mese di maggio, e che arriva adesso nelle sale cinematografiche italiane. La storia di una piccola comunità rom, appunto denominata A Ciambra, in Calabria, di un ragazzino Pio di 14 anni che ci vive dentro. Sentiamo la clip e poi il racconto di Chiara Pizzimenti. Ma sono uomo, sì. Sono già uomo. Sì? Sì. Oh, oh, viva! C'è una banda di zingari che sta facendo un casino, stanno rubando tutto. Lui dice di essere già uomo, ma Pio è sul confine fra infanzia ed età adulta. Un confine che per lui è diverso dai ragazzini comuni nei tempi, l'età e nei modi, le attività che dimostrano la maturità. Pio vive nella comunità della Ciambra, volgarmente gli Zingari, a Gioia Tauro, in Calabria, finita nelle cronache più che al cinema. E l'idea di raccontare questo luogo e chi lo vive, gli attori sono gli stessi rom, è venuta al regista Jonas Carpignano, padre italiano, madre afroamericana, dopo che in Calabria, dove ha girato il documentario Mediterranea sugli immigrati di Rosarno, gli è sparita la macchina e gli è stato consigliato di andare da loro a riscattarla. Me ne vado. Dopo un galera e poi abbiamo tutta la famiglia. Non dovrei pensare a rubare il mare. Pio vuole dimostrare la sua maturità quando diventa l'uomo di casa dopo l'arresto di padre e fratello maggiore. Non più il pallone dei bambini, che peraltro già piccolissimi fumano e che non hanno nessuna scolarizzazione, ma il lavoro dei grandi, che consiste fondamentalmente nel rubare e infine anche in un'iniziazione sessuale. Però il legame con la famiglia, il sangue vince su tutto, anche sull'amicizia, anche su chi ti ha dimostrato più sostegno dei familiari, ma appartiene a un'altra comunità, La regola è: siamo noi contro il mondo. Rispetto a quel mondo esterno c'è una lingua ostica come un muro da scalare, il film ha i sottotitoli, e regole opposte. La lealtà è solo verso la famiglia, anche quando questa ti dice che per non essere più bambino devi tradire la fiducia del tuo migliore amico. A Ciambra si è aggiudicato il premio Europa Cinemas Label come miglior film europeo alla Quinzaine des Réalisateurs di Cannes, dove era arrivato con il sostegno di un produttore come Martin Scorsese, un sostegno che è andato a una forma di cinema originale che fa soffrire e coinvolge, oltre a far conoscere una realtà certamente poco nota. Se sia documentario o lungometraggio è la domanda a cui Jonas Carpignano si è trovato più spesso a rispondere. We try very, very, very hard to maintain a certain level of realism in terms of the actions of the characters. Abbiamo cercato molto seriamente di mantenere una certa dose di realismo nelle azioni dei personaggi. Loro sono quello che sono, ma contemporaneamente dovevamo raccontare una storia. L'obiettivo era avvicinare il pubblico al percorso del personaggio principale. La via migliore, per me, era scrivere le scene fondamentali della vita delle persone che volevamo raccontare. E questo era A Ciambra, il film con il quale chiudiamo, diciamo, la parte dedicata ai consigli per i film in sala e con la quale invece ci catapultiamo nel cinema da vedere in casa, cominciando a ricordarvi il film con il quale avevamo giocato 7 giorni fa. Non sono un criminale. Andiamo. Etichette. Non c'è nessuna confessione. Non mi piacciono gli accordi illegali. Io mi sono cacciato in questa storia e io me ne tirerò fuori. Buona fortuna in tribunale. Si trattava di Fast and Furious 8, una saga ormai praticamente infinita, ma che ha sempre un successo clamoroso, che a volte addirittura cresce rispetto ai film precedenti. Questo è l'ottavo capitolo, ci abbiamo giocato la settimana scorsa, lo ricevono in Blu-ray David Bressani di Nimis, provincia di Udine, e Francesco Curto di La Morra, provincia di Cuneo. I nostri due ascoltatori che per primi lo hanno indovinato, ce lo facciamo raccontare in questa edizione in Blu-ray da Giulio San Giorgio. Ciao Giulio, Film TV. Ciao Franco, un saluto ai radioascoltatori. Sì, da Cuba a New York fino al Mar di Barents, la ciurma, o meglio, come amano definirsi la famiglia di Fast and Furious, gira il mondo per fermare un folle anarchico che vuole scatenare il caos e soprattutto per riportare a casa il loro patriarca. Il Blu-ray garantisce un ottimo riversamento e gli extra sono decisamente gustosi. È da segnalare soprattutto lo spirito cubano, che è un focus su quello che da molto tempo a questa parte è il primo film di una major americana girato a Cuba. Però ci sono anche esperienze, pseudo esperienze di guida con camera nell'abitacolo, scene dal punto di vista degli stunt, che ovviamente in un film del genere fanno un lavoro pazzesco, e il commento molto interessante del regista F. Gary Gray, che è un mestierante del genere. E questo allora era il nostro game della scorsa settimana. Giulio, per quanto riguarda le segnalazioni dai presenti televisivi della prossima settimana, invece, siamo andati a fare un paio di scelte abbastanza particolari. La prima è quella di questo film che passa domenica 3 settembre su Rai 3 alla 1:40 di notte, che si intitola At Berkeley, è firmato da Frederick Wiseman ed è un racconto che proprio porta allo spettatore la particolarità di una delle università più importanti del mondo. Assolutamente sì, Wiseman ha 87 anni, 42 film all'attivo, è sicuramente il maggior documentarista vivente. Per la prima volta, tra l'altro, quest'anno nella sua vita è nel concorso principale di uno dei festival maggiori, ovvero Venezia. Wiseman è un regista che si concentra soprattutto sui luoghi in cui l'istituzione forma il cittadino, i luoghi in cui una comunità prende vita e in cui il potere tra l'architettura, l'economia, l'organizzazione di una piccola società costituisce quello che è l'idea di un popolo. A Venezia porta un film sulla storica biblioteca di New York e Fuori Orario, che tanto ha fatto veramente per divulgare il cinema di questo maestro, porta, come dicevi, le 4 ore e 4 minuti di At Berkeley, in cui, come sempre, Wiseman affronta il luogo come protagonista, l'università di Berkeley, le discussioni, le lezioni, le riunioni e alla fine la creazione di un sapere come pratica collettiva che esce proprio da quelle mura. Allora, ricordiamo l'appuntamento domenica 3 settembre At Berkeley su Rai 3 alla 1:40 di notte. Giovedì 7 invece, uno dei film più interessanti di un regista regista molto amato dai cinefili e dai festival, da Pablo Trapero. Il film si intitola Il Clan e va in onda su Rai 3 alle 21.15. Sì, siamo nella prima metà degli anni Ottanta, nell'Argentina in transito tra la dittatura e la democrazia, e seguiamo le vicende criminali di Archimedes Puccio, sequestratore di persone della sua famiglia. È un altro titolo che tra l'altro ha a che fare con la Mostra del Cinema di Venezia, dove fu presentato nel 2015, è un romanzo criminale e politico nell'Argentina post-Falkland, con colonna sonora ultra pop e un'ironia feroce, una saga familiare tragica, nera, con qualche sprizzo di grottesco, ed è un ottimo prodotto di genere, oltre a raccontare, come dire, uno squarcio, uno scorcio sulla Argentina di quegli anni, quindi avere anche un'idea di film storico, ma soprattutto è stato anche un grandissimo successo commerciale in Argentina, quindi non solo un film di uno dei registi più amati dai cinefili e dai festival, ma un film che è anche riuscito ad arrivare al grande pubblico. Allora, ricordiamo il passaggio televisivo giovedì 7 settembre, Rai 3, 21.15, Il Clan di Pablo Trapero. Grazie Giulio, ci sentiamo la prossima settimana. Ciao Franco, alla prossima. E siamo arrivati alla fine della nostra trasmissione, però vi dobbiamo ancora una soluzione, quella del nostro DVD game di oggi. Ebbene, abbiamo giocato con Blade Runner in 4K in attesa del nuovo Blade Runner 2049 nel mese di ottobre nelle sale cinematografiche di tutto il mondo. Abbiamo giocato con l'originale, diciamo così, ma in 4K, quindi in Ultra HD. Settimana prossima i vincitori. Grazie per averci seguito, un saluto da Franco D'Assisti. Ciao chef, come stai? Ciao Pier, bene, bene, grazie. Senti, cosa mi prepari? Io pensavo nuvole di granchio, una sensazione di finfarro, magari con un'assenza di rododendro al gratin. No, no, no, sei troppo futurista, dobbiamo essere più pop. E parla come mangi. Ma no, mangia come parli. Mangia come parli, di Davide Oldani e Pierluigi Pardo, da sabato 9 settembre alle 9, su Radio 24. Ma la sensazione di finferlo!